Nelle sere fredde e scure presso il fuoco del camino. Quante storie, quante fiabe raccontava il mio nonnino. La più bella che io ricordo è la storia di un amore. Di un amore appassionato che felice non finì. Ed il cuore di un poeta a tal punto intenerì che la storia di quei tempi mise in musica così. Aveva un bavero color zafferano e la marsina color ciclamino. Veniva a piedi da Lodi a Milano per incontrare la bella Gigogì. Passeggiando per la via le cantava mio dolce amor. Gigogin, speranza mia, coi tuoi baci mi rubi il cuore. E la storia continua. Lui fu mandato soldatino in Piemonte ed ogni mattina le inviava un fiore sull'acqua di una roggia che passava per Milano, finché un giorno lui saputo che il ritorno finalmente era vicino. Sopra l'acqua un fior d'arancio deponeva un bel mattino. Lei vedendo, indovinando la ragione di quel fiore, per raccoglierlo si spinse tanto, tanto che cascò. Sopra l'acqua con quel fiore verso il mare se ne andò, e anche lui per il dolore dal Piemonte non tornò. Aveva un bandero color zafferano e la marsina color ciclamino. Veniva a piedi da Lodi a Milano per incontrare la bella Gigogì. Lei lo attese nella via fra le stelle stringendo un fior, e in un sogno di poesia si trovarono uniti ancora. Stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che noi abbiamo detto un bavero color zafferano. La storia di un...